Era nient'altro che una di quelle sconcezze di giornali illustrati Yankee che Terry si fa passare da Corny Keller. Segreti per sviluppare le parti intime. I trascorsi di una bellezza del gran mondo. Norman W. Tupper, ricco imprenditore di Chicago, trova la moglie bella ma infedele sulle ginocchia del tenente Taylor. La bella e mutandine che trascorre l'amico che la gratta dove le prude. E Norman W. Tupper che arriva con lo scacciacani proprio in tempo per trovare che lei ha finito di correre l'anello col tenente Taylor. Oh, Teresina mia, dice Joe, che camicina corta! Che pelo, Joe, faccio io. Ti piacerebbe mangiare una coscia di quella pollastrella, eh? Così comunque, eccoti John Wise Nolan insieme a Lenihan, col muso lungo come una quaresima. Beh, dice il cittadino. Quali sono le ultime notizie dal teatro delle operazioni? Quei cialtroni del municipio cosa han deciso sulla lingua irlandese nel loro conciliabolo? Oh Nolan, di lucente armatura rivestito, inchinandosi infino al suolo, omaggio resi al capo possente, altissimo e valoroso d'Irlanda tutta, e dettegli a divedere quanto era accaduto. Come gli antichi signori della fedelissima città, la seconda del reame, raunatisi fossero nel palagio, ed ivi, dopo le preci agli dei che abitano l'etere superno, avessero tenuto solenne consiglio acciocché, se darsi potesse, rimessa fosse in onore tra i mortali l'alata loquela dei Gaeli che il mare divide. È in marcia. Dice il cittadino, al diavolo i truci sassoni fottuti e il loro patois. Così JJ a dir la sua e a fare lo smargiasso, dicendo che una campana è buona finché non si sente l'altra, e contano i fatti e la tattica di Nelson, guardare dal cannocchiale con l'occhio cieco, e che era come mettere in stato d'accusa a tutta una nazione, e Bloom a cercare di tenergli bordone, e la moderazione e la fotterazione. E le loro colonie e la loro civilizzazione. La loro sifilizzazione vuol dire, dice il cittadino, che vadano all'inferno. Che Dio sia buono a qualcosa, li stramaledica tutti quegli orecchioni fottuti figli di puttane. Non hanno né musica, né arte, né letteratura degne d'essere chiamate tali. Tutta la civiltà che hanno l'hanno rubata a noi, tartaglioni di figli di spettri bastardi. La famiglia europea, dice JJ, non sono europei per niente, dice il cittadino. Sono stato in Europa io con Kevin Egan di Parigi. Non ci trovi una sola traccia di loro e della loro lingua in nessun posto, se non nel cabinet d'aisance. E John Wise a dire: molti fiori che l'uom fiorir non vede. E lei neanche mastica un po' del gergo. Conspuez les Anglais. Perfide Albion. Ciò disse, e con le rozze, grosse mani, muscolose e nerborute, alzò il becchero di nera spumosa cervogia e, lanciando il tribal grido di guerra, Lam de Argabu, beve alla disfatta dei suoi nemici, schiatta di possenti valorosi eroi, signori delle onde, che siedono sui troni d'alabastro silenti come gli dei immortali. Ma che hai? Dico a Lenian. Mi hai l'aria di chi ha perso uno scellino e trovato 6 pence. La coppa d'oro, dice lui. Chi ha vinto, Mister Lenian? Dice Terry. Butta via, dice, a 20 contro 1, un fetente outsider, e gli altri come se non ci fossero stati. E la puledra di Bass? Dice Terry. Ancora corre, dice lui. Siamo tutti nella stessa barca. Boylan aveva messo 2 ghinee su mio consiglio sopra Sceptre, per sé e per un'amica sua. E io una mezza corona per me, dice Terry, su Zinfandel, che Mr. Flynn mi aveva dato per buono, quello di Lord Howard de Walden. 20 contro 1, dice Lenian. Così è la vita per i gitani. Butta via, dice lui, fa piazza pulita e poi va a parlare di Scalogna. Fragilità, il tuo nome è Sceptre. Così s'avvicina alla scatola dei biscotti che Bob Doran aveva lasciato, per vedere se c'era qualcosa da sgranare a sbafo, e il vecchio cagnaccio dietro che cercava di buscare qualcosa anche lui, col grugno rognoso per aria. Mamma pazienza è andata in dispensa. Niente di niente, figliolo, dice. Su con la vita, dice Joe. Quella avrebbe vinto se quell'altro cane non si fosse ficcato in mezzo. E JJ e il cittadino a discutere di legge e di storia con Bloom, che ogni tanto ci metteva la sua parolina. C'è gente, dice Bloom, che vede la pagliuzza negli occhi degli altri, ma non la trave nel proprio. Rimase, dice il cittadino, non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere, se capite quel che voglio dire. Dove sono oggi quei 20 milioni mancanti di irlandesi che ci dovrebbero essere qui oggi invece di quattro? Le nostre tribù perdute e le nostre ceramiche e i tessuti, i migliori del mondo, e la nostra lana che si vendeva a Roma al tempo di Giovenale, e il nostro lino, e il nostro damasco dei telai di Antrim, e i nostri merletti di Limerick, le nostre concerie, e le nostre cristallerie, laggiù, dalle parti di Ballyboch, e il nostro popelain ugonotto, che abbiamo dal tempo di Jacquard de Lyon, e i nostri tessuti di seta, e i nostri tweed di Foxford, e le trine avorio del convento delle Carmelitane di New Ross, niente di simile in tutto il resto del mondo. Dove sono i mercanti greci che venivano attraverso le colonne di Ercole, quella Gibilterra che ora è nelle mani dei nemici del genere umano, con oro e porpora tiria per venderli a Wexford, alla fiera di Carmen? Leggetevi Tacito e Tolomeo e anche Giraldo Cambrense, vino, pelletterie, marmo di Connemara, argento di Tipperary, secondo a nessuno. I nostri cavalli, universalmente stimati anche oggi, cavallini irlandesi, con Re Filippo di Spagna che si offriva di pagare il dazio per avere diritto di pesca nelle nostre acque. Che cosa non ci devono i giallastri d'Albione per la rovina del nostro commercio e dei nostri focolari? E il Barrow e lo Shannon, il cui letto non vogliono scavare, con tutti quei milioni di ugeri di fango e di paludi, roba da farci intisichire tutti. Tra poco saremo senza alberi come il Portogallo, dice John Wise, o Heligoland, con quell'unico albero, se non si fa qualcosa per il rimboschimento. Larici, abeti, tutti gli alberi della famiglia delle conifere stanno scomparendo alla svelta. Leggevo in un rapporto di Lord Castletown. Salvateceli, dice il cittadino, il frassino gigante di Galway. E il signore degli olmi di Kildare con 40 piedi di circonferenza e uno iugero di fogliame. Salvate gli alberi d'Irlanda per gli uomini futuri d'Irlanda sulle belle colline di Eire. Oh, l'Europa vi tien gli occhi addosso, dice Lenian. Il fiorfiore della società cosmopolita era presente a Mass questo pomeriggio al matrimonio del cavaliere Jean Wyse de Nolan, gran maestro e capo dei forestali nazionali irlandesi, con Miss Pine Conifer di Pine Valley, donna Silvestra Olmo, Mrs. Barbara Betullian, Mrs. Paul Frassino, Mrs. Holly Mandorlocchi, Miss Daphne Allori, Miss Dorothy Canebrake, Mrs. Clyde Alberoni, Mrs. Rowan Verdi, Mrs. Helen Rampicanti, Miss Virginia Creeper, Miss Gladys Faggi, Miss Olive Garth, Miss Blanche Archery, Mrs. Maud Mahogany, Miss Mira Myrtle, Miss Priscilla di San Buco, Miss Tuberosa Vespignani, Miss Grace Pioppi, Miss O Mimosa San, Miss Rachel Fontecedro, le Misses Giglia e Viola Lillà, Miss Timidity Tremoli, Mrs. Kitty Muschi Roridi, Miss May Bianchi Spini, Mrs. Gloriana Palme, Mrs. Liana Forrest, Mrs. Arabella Bosconero e Mrs. Norma della Quercia di Oak Holm Regis adornavano della loro presenza la cerimonia. La sposa, a fianco del padre, il McConifer delle ghiande, era veramente deliziosa. in una creazione di seta mercerizzata verde, modellata su una sottoveste grigio crepuscolo, con una larga fascia color smeraldo a guisa di sciarpa, e che terminava in un triplo falbalà di frange di colore più cupo, il tutto ravvivato da bretelle e motivi ornamentali color bronzo ghianda sui fianchi. Le damigelle d'onore, Miss Silvia Conifer e Miss Ciparissa Conifer, sorelle della sposa, indossavano toilette degne dell'occasione e nella stessa tonalità, con un delicato motivo rosa piuma che correva nelle pieghe e si ripeteva capricciosamente sui cappellini verde giada, in forma di penne d'airone di corallo pallido. Il signore Enrique Flor attendeva all'organo con la sua ben nota perizia e, in aggiunta ai pezzi prescritti della messa nuziale, suonò a conclusione della funzione una nuova e avvincente versione di Boscaiolo risparmia quell'albero. Lasciando la chiesa di Saint-Fiacre in orto, dopo la benedizione papale, la coppia felice fu sottoposta a un festoso tiro incrociato di mandorle, fagiole, foglie d'alloro, pappi di salice, bacche d'edera, bacche di caprifoglio, rametti di vischio e germogli di vita nuova. Mr. e Mrs. Wise Conifer Nolan trascorreranno una tranquilla luna di miele nella foresta nera. E noi teniamo gli occhi sull'Europa, dice il cittadino. Avevamo rapporti d'affari con la Spagna e coi francesi e coi fiamminghi prima che sti bastardi fossero svezzati. Birra spagnola a Galway, barche cariche di vino sul fiume cupo vinoso. E li riavremo, dice Joe. Con l'aiuto della Santa Madre di Dio li riavremo, dice il cittadino, battendosi una mano sulla coscia. I nostri porti, che ora son vuoti, saranno pieni di nuovo. Queenstown, Kinsale, Galway, Blacksod Bay, Ventry nel regno di Kerry, Killybegs, il terzo porto per grandezza in tutto il mondo, con una foresta d'alberi dei Lynch di Galway e degli O'Reilly di Cavan e degli O'Kennedy di Dublino, al tempo in cui il conte di Desmond si permetteva di fare un trattato con l'imperatore Carlo V in persona. E li riavremo, dice. Quando si rivedrà la prima nave da guerra irlandese fender le onde con la nostra bandiera inalberata. Niente arpe di Enrico Tudor, no davvero, la più antica bandiera che abbia battuto i mari, la bandiera della provincia di Desmond e Thomond, tre corone in campo azzurro, i tre figli di Milesio. E giù l'ultima sorsata. Per gli dèi, pieno di vento e di piscio come un gatto di conceria. Le vacche del Connacht hanno le corna lunghe. Vorrei proprio per la sua pellaccia fottuta vederlo andare a raccontare tutte ste storie al popolo di Shanagolden, ma lì non ha manco il coraggio di metterci la punta del naso con i Molly Maguire che lo stanno cercando per ridurlo a un colabrodo, dopo che ha messo le mani sulla proprietà di uno sfrattato. Bene, bene, ben detto, dice John Wise. Cosa prendete? Una guardia imperiale, dice Lenia, per festeggiare la circostanza. Un mezzo, Terry, dice John Wise, e un mano in alto. Terry, che fai? Dormi? Sì, signore, un whisky piccolo e una bottiglia di Alsop. Bene, signore. Con naso su quel fottuto giornale, in cerca di qualcosa di piccante insieme con Alf, invece di occuparsi dell'aspettabile clientela. La figura di una partita a testate. Cercavano di spaccarsi i teschi fottuti, uno che si buttava contro l'altro a testa bassa come un toro contro un cancello, e un'altra, il mostro negro bruciato ad Omaha in Georgia, un buscherio di masnadieri coi cappelloni in testa che ti impallinano un povero negro appeso a un albero con la lingua di fuori e un focherello sotto. Per Diana, perché non l'affogano in mare dopo e non lo mettono sulla sedia elettrica e non lo crocifiggono, così sono più sicuri? E della nostra marina da guerra, fa Ned, che tiene a bada i nemici della terra, cosa ne dice? Ora ve ne dico una io, dice il cittadino. L'inferno in terra. Leggetevi le rivelazioni che escono sui giornali a proposito delle nerbate sulle navi scuola Portsmouth. Scrive uno che si firma disgustato. Così attacca a parlare delle punizioni corporali e la ciurma e i marinai e gli ufficiali e i contrammiragli attillati con le loro feluche e il cappellano con la Bibbia protestante ad assistere alla punizione. E un giovanetto trascinato avanti che urla chiamando la mamma e loro lo legano alla culatta di un cannone. Un deretano a 12 colpi, dice il cittadino. Era così che la chiamava quel vecchio farabutto di Sir John Beresford, ma l'inglese odierno timorato di Dio le chiama vergate sul posteriore. E allora, John Wise, è un'usanza meglio onorata con l'infrangerla che con l'osservarla. E poi ci racconta che si avvicina il capitano d'armi con una lunga verga e prende l'abbrivo e gli scortica il fottuto deretano al povero disgraziato finché non urla all'assassino. Questa è la gloriosa Marina Britannica, dice il cittadino, che la fa da padrona in tutto il mondo, quelli che non saranno mai schiavi di nessuno, con la sola camera ereditaria che sia rimasta sulla faccia della terra. E il paese in mano di una dozzina di porci all'ingrasso e di baroni delle balle di cotone. Questo è il grande impero di cui si vantano, un impero di schiavi sfruttati e fustigati. Su cui il sole non sorge mai, dice Joe. E il tragico è che loro ci credono, dice il cittadino. Quei disgraziati Yahoos ci credono. Credono nella verga, fustigatore onnipotente. Creatore dell'inferno sulla terra è in Jackie Marinaio, figliolo d'un cannone, che fu concepito da un odioso vanto, nato dalla marina da guerra. Soffrì sotto deretano e 12, fu scarificato, scuoiato e battuto, urlò come un diavolo dell'inferno. Il terzo giorno risorse dal letto, tornò in porto e ora siede sul di dietro. Fino a nuovo ordine, donde tornerà a sudar sangue per vivere ed essere ripagato. Ma, dice Bloom, la disciplina non è la stessa dappertutto. Voglio dire, che non sarebbe forse la stessa cosa qui se si opponesse la forza alla forza? Non ve l'avevo detto. Quant'è vero che son qui a bere, anche se stesse per tirar le cuoia, ti vorrebbe dimostrare che morire è vivere.